A questo gradino dell'evoluzione è arrivato per il discepolo il momento in cui egli supera l'illusione che deriva dalla limitazione della sua personalità. Ora può osservare come mondo esteriore ciò che vi è nella sua personalità, così come prima considerava mondo esteriore ciò che agiva sui suoi sensi. Così impara gradatamente con l'esperienza a trattare se stesso come prima trattava gli esseri attorno a sé. Se all'uomo si aprisse lo sguardo nel mondo dello spirito, prima di essere a sufficienza preparato alle entità che vi esistono, dinanzi all'immagine già descritta della propria anima, sarebbe anzitutto come di fronte ad un enigma. Le figure dei suoi istinti e delle sue passioni gli si presentano ora con forme che sentirebbe come figure animali o più di rado come figure umane. A dire il vero, le figure animali di questo mondo non sono mai del tutto uguali a quelle del mondo fisico, nondimeno ne hanno una lontana somiglianza. Da osservatori inesperti possono anche essere considerate come uguali. Penetrando in quel mondo bisogna adottare un modo del tutto diverso di giudicare, perché prescindendo dal fatto che le cose che sono in effetti parte dell'interiorità umana vi si palesano come mondo esteriore, esse si presentano anche come immagini riflesse di ciò che in realtà sono. Quando, per esempio, vi si vede un numero, bisogna leggerlo al rovescio, come immagine riflessa. Per esempio, il 265 significa realmente 562. Una sfera è veduta come se ci si trovasse al suo centro. Occorre poi interpretare giustamente questa visione percepita dal di dentro. Anche le qualità animiche compaiono come immagini riflesse. Un desiderio che si riferisce a qualcosa di esteriore si presenta come una figura che muove incontro a chi l'ha desiderata. Le passioni che hanno la loro sede nella natura umana inferiore possono assumere forma di animali o di figure simili che si avventano contro l'osservatore. In realtà, queste passioni tendono verso l'esterno, cercano l'oggetto della loro soddisfazione nel mondo esterno. Tale ricerca si palesa nell'immagine riflessa, come un assalto rivolto contro il portatore della passione. Se il discepolo dell'occultismo, prima di ascendere alla visione superiore, ha imparato a conoscere le proprie qualità a seguito di un'autosservazione calma ed obiettiva, nel momento in cui la sua interiorità gli si presenta come immagine riflessa esterna, troverà il coraggio e la forza di comportarsi nel modo giusto. Uomini che non hanno acquisito con tale introspezione una conoscenza sufficiente della propria interiorità non si riconosceranno nella loro immagine riflessa e la vedranno come una realtà a loro estranea. Quella vista incuterà loro anche timore e non potendo sopportarla, cercheranno di persuadersi che tutto ciò è solo una creazione fantastica che a nulla conduce. In entrambi i casi, il prematuro arrivo ad un determinato stadio del loro sviluppo sarebbe fatalmente di ostacolo all'ulteriore loro evoluzione. È assolutamente necessario che il discepolo dell'occultismo attraversi l'esperienza della visione spirituale della propria anima per poter ascendere più in alto, poiché nel proprio sé ha l'elemento animico spirituale di cui meglio può giudicare. Se ha acquisito nel mondo fisico una solida conoscenza della propria personalità e poi l'immagine della stessa gli si affaccia nel mondo superiore, può fare un confronto fra le due. Può riferire la superiore a quella che già conosce ed è così in grado di partire da un terreno sicuro. Se invece gli si presentassero molte altre entità spirituali, non sarebbe in grado di spiegarsi la loro natura ed essenza. Si sentirebbe presto sfuggire il terreno sotto i piedi. Non si ripeterà perciò mai abbastanza che la via sicura verso il mondo superiore è quella di passare attraverso una seria conoscenza ed un giudizio della propria entità. Sono dunque immagini spirituali quelle che il discepolo incontra all'inizio sul cammino verso il mondo superiore, perché la realtà che corrisponde a quelle immagini è appunto in lui stesso. Il discepolo deve perciò essere maturo per non chiedere concrete realtà a questo primo gradino e considerare invece le immagini come la cosa giusta. Entro questo mondo di immagini impara presto a conoscere qualcosa di nuovo. Il suo sé inferiore gli sta dinanzi soltanto come immagine riflessa, ma nel centro di essa appare la vera realtà del sé superiore. Dall'immagine della personalità inferiore risulta visibile la figura dell'io spirituale. Soltanto a quest'ultimo si tendono i fili verso altre realtà spirituali superiori. È così venuto il momento di servirsi del fiore di loto a due petali che sta nella regione degli occhi. Se esso comincia a muoversi, il discepolo trova la possibilità di mettere il suo io superiore in relazione con entità spirituali superiori. Le correnti che emanano da questo fiore di loto si muovono verso realtà superiori ed egli è appieno cosciente dei relativi movimenti. Come la luce rende gli oggetti fisici visibili all'occhio, così queste correnti rendono visibili gli esseri spirituali dei mondi superiori. Immergendosi nelle rappresentazioni che provengono dalla scienza dello spirito e che contengono verità fondamentali, il discepolo impara a mettere in movimento e a dirigere le correnti del fiore di loto degli occhi.